valle stelle. E dove stava la terra, ride al lusso dell'orso. E un passo sfiorava l'arena. Fragrante mi cadea fra le braccia. Menetrio premenete le belle forme di giorni, le otte i veli svari per sempre il sogno mio d'amore.